e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, impostazione pronta. Allora, abbiamo brindato all'arrivo dell'anno nuovo. In questi casi c'è chi ha la tradizione o l'abitudine di liberarsi del vecchio in tanti sensi, a partire dagli oggetti di casa, i vestiti, eccetera. Io ho già fatto il bustone di roba che non voglio più vedere. Non tutto ciò che appartiene al passato, però lo sappiamo bene, è semplicemente da eliminare o cancellare. A volte può rimanere come un ricordo prezioso, se non un pezzo da collezione. Altre volte possiamo sostituirlo con qualcosa di nuovo che ci può tornare molto utile. È il caso questo dei nostri denari, in particolar modo, cara Nicoletta, senti che cosa ti riesumo stamattina delle nostre vecchie lire. Va bene, dai. Allora, sembra strano, ma sono ancora più di un miliardo le vecchie lire rimaste in circolazione fra monete e banconote. Ce le abbiamo tutte noi due. Esatto, la metà. Qualcuno se n'è accorto un po' troppo tardi di averne ancora in casa e quando se n'è accorto non era più in grado appunto di poterle cambiare in euro. Al contrario di quanto molti pensano, in teoria questa possibilità ci dovrebbe ancora essere. Lo ha confermato proprio qualche settimana fa la Corte Costituzionale con una sentenza. Eppure con qualche impedimento e ostacolo c'è, perché appunto in realtà questo cambiamento non è possibile. C'è una situazione insomma un po' confusa della quale si sono occupati i giornali in questi giorni. Oggi noi ve la andiamo a raccontare. Voi intanto all'800240024 raccontateci se avete ancora qualche moneta o banconota delle vecchie lire in casa, se avete fatto questo miracoloso ritrovamento magari frugando nei cassetti della nonna, perché in realtà poi sono un po' gli anziani che in realtà all'epoca non si ricordavano magari di avere questi soldi in casa sotto il materasso e non hanno cambiato tutto quello che avevano. Se volete fateci anche una foto, condividetela con noi su Facebook o Twitter. Naturalmente, se vi piacerebbe trasformare queste monete o queste banconote in euro, fateci le vostre domande sulla procedura da seguire. Noi vi spiegheremo tutto nella prima parte della trasmissione. Mentre nella seconda parte del programma torniamo a parlare di donazione di sangue, lo facciamo perché sono entrati da poco in vigore i nuovi requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. Allora, cosa cambia praticamente per chi va a donare? Ne parleremo naturalmente con il nostro esperto, ma c'è di più. I donatori, lo sappiamo, sono generosi e gli esperti FIDAS ci regaleranno dopo la diretta, quindi a partire dalle 12, un'ora del loro tempo per rispondere a tutte le vostre domande che ci segnalerete sul nostro profilo Twitter usando l'hashtag Oggi Dono. Per chi non avesse Twitter o non volesse utilizzarlo, c'è sempre la modalità mail e quindi noi vi aspettiamo anche con le mail a Cuore Denari, ma naturalmente vi aspettiamo come sempre in diretta all'800240024 per raccontarci la vostra esperienza di donatori, per commentare con noi le novità di questo nuovo decreto, se invece state pensando di diventare donatori, per raccogliere tutte le informazioni che vi possono essere utili. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Allora, una sentenza della Corte Costituzionale ha riaperto i termini per cambiare le vecchie lire in euro. Avete letto questa notizia sui giornali negli ultimi giorni? Una procedura, questo cambiamento, che era addirittura diventata vietata dal 2011, dalla fine del 2011. È una notizia di Denari carina, a cui ci piaceva dare spazio anche un po' per alleggerire il clima finanziario di questi giorni, che tra borse che riprendono a scendere verticalmente, migliaia di risparmiatori traditi dalle banche sul territorio, volevamo riprendere fiato magari con una buona notizia, allargando il tiro anche al tema dei tesori in soffitta o nel cassetto. Allora, intanto, se avete ritrovato vecchie lire in casa, in banconote o monete, vi spieghiamo stamattina che cosa fare per andare a recuperare qualcosa, sempre che vi interessi farlo o non vogliate tenervele per ricordo, perché anche questa naturalmente è una scelta legittima. Poi però andremo anche a caccia di tesori a casa nostra, monete e banconote, come riconoscere se abbiamo dei pezzi di valore. Allora, con chi faremo tutta questa chiacchierata? Eccoli qua già che il mio ospite, che il nostro ospite in studio questa mattina fa un po' il furbetto con Nicoletta. Di cosa state parlando a mia insaputa? Non mentre possiamo io presento dirlo. Le 1.000 lire, quella canzone. Le 1.000 lire. Di quali canzone, Alex Richebuono, buongiorno, parlava la canzone Se potessi avere 1.000 lire al mese? Che dipende chi c'era rappresentato davanti. Esatto, no, in realtà non c'era nessuno sulla parte frontale della banconota. Erano delle banconote meravigliose, erano quasi dei lenzuoli. E sono quelle banconote notte che stanno a cavallo tra, diciamo, la fine della guerra mondiale e l'inizio, insomma, della Repubblica. E non so, chiaramente i radiotelespettatori non lo possono vedere. Ma possiamo fotografare noi e circuitare tutto su Facebook e Twitter. Adesso faremo fare una foto a Marco Lombardo, naturalmente ci pensiamo noi con i social network. Alex Ricchebuono è un esperto di investimenti, ha lavorato per le più grandi società di investimento internazionali, scrive libri sulla storia della finanza, è un appassionato di storia economica, è veramente una persona a cui la parola passione si associa molto bene, ma fa tantissime cose. Ha ricoperto anche l'incarico di presidente del comitato promotore della coniazione ufficiale di Expo 2015, ma in tutto questo mi fa anche concorrenza come giornalista, perché sta andando in onda in questo periodo su Rai 5 un documentario eccezionale sul rapporto fra arte e denaro. Esattamente. Che incredibilmente è un tema che non si sa, non è mai stato raccontato in modo compiuto. Sono 4 puntate dove appunto spieghiamo i legami a volte nascosti tra il mondo dei soldi e il mondo dell'arte, insomma. Ecco. Non è stato mai magari raccontato bene in televisione. Il Sole 24 Ore con Art Economy 24 invece fa un lavorone in questo senso. Riconosciamo a Marilena Pirrelli naturalmente anche i suoi meriti. Detto questo, andiamo alla questione di oggi, che affronterò intanto con Alessandro Pedone, responsabile del risparmio dell'Associazione dei Consumatori ADUC. Pedone, buongiorno e ben ritrovato e buon anno. Buongiorno, ben ritrovato a voi e tutti i radioascoltatori. Allora, stiamo ricostruendo questa vicenda di cronaca che in realtà a quanto pare ha appassionato un bel po' di persone in queste ultime settimane, quelle che si sono accorte di questa sentenza della Corte Costituzionale che lo scorso novembre si è appunto pronunciata su questo argomento e ha detto nella sostanza: per chi ha vecchie lire in casa e da qualche anno, dalla fine del 2011, non poteva più ricambiarle in euro, adesso in realtà si è riaperta questa possibilità. Intanto ci racconta, Pedone, come mai la Corte Costituzionale è arrivata a sentenziare su questo argomento? Sì, la vicenda risale al governo Monti che con un decreto aveva anticipato di 84 giorni la scadenza che era fissata da una precedente legge del 2002, quella di conversione con l'euro, la scadenza entro la quale si potevano chiedere alla Banca d'Italia la possibilità di convertire le proprie vecchie lire in euro. Con questa norma immediatamente aveva bloccato questa possibilità, anticipandola appunto di 84 giorni. Ci sono state fatte, come spesso succede in Italia, delle opposizioni a questa norma, quindi un tribunale ha sollevato la questione di costituzionalità di questa norma e il 6 novembre scorso si è pronunciata la Corte Costituzionale dichiarando incostituzionale per violazione dell'articolo 3, cioè quello di uguaglianza, cioè non era giusto che alcuni cittadini avevano cambiato le lire ed altre non potevano più farlo improvvisamente da un momento all'altro, quindi diciamo violava, secondo la Corte Costituzionale questa cosa viola l'articolo 3 della Costituzione. E quindi sono riaperti i giochi. Il problema è che da allora c'è stato un totale silenzio delle istituzioni, cioè non si sa che cosa succede. Noi abbiamo immediatamente chiesto alle istituzioni di dare informazioni ai cittadini su come poter esercitare questa possibilità, perché adesso c'è un problema di scadenza. La scadenza precedente era al febbraio del 2012. Ovviamente questa scadenza non è più possibile e quindi siamo in un momento, diciamo, di interregno dove non si sa bene come agire. In realtà una scadenza viene indicata, che è quella del 28 gennaio. Per quale motivo viene fissata proprio questa data? Magari me lo faccio. L'abbiamo indicata noi questa scadenza, nel senso che in modo prudenziale, poiché, come dicevo prima, il governo Monti aveva anticipato di 84 giorni la possibilità di convertire, noi abbiamo pensato in via prudenziale, dal momento in cui la Corte Costituzionale ha bloccato, ha reso illegittimo questo provvedimento, facciamo passare 84 giorni e arriviamo a. Quindi dal 5 novembre al 28 gennaio sono questi gli 84 giorni? È una vostra interpretazione? Prudenziale. E noi vorremmo che fosse lo Stato a dare le indicazioni precise su come farlo. Noi diciamo mettiamo le mani avanti, Facciamo la domanda e sul nostro sito abbiamo pubblicato un modulo appunto per richiedere alla Banca d'Italia la conversione. Facciamo la domanda entro questi 84 giorni e siamo ragionevolmente sicuri che nessuno ci potrà dire non siete stati tempestivi, diciamo, perché l'abbiamo fatto nei tempi che erano precedentemente previsti. Però speriamo che le istituzioni invece facciano delle indicazioni, infatti, diano dei moduli, facciano il loro chiaramente lavoro, probabilmente Banca d'Italia prende tempo, oltre al fatto che le rogne che di cui si deve occupare in questo periodo sono tante, gli ci mancava pure questa a Ignazio Visco, e non sarà molto contento del fatto che se tutti scoprissero tutto questo tesoretto, se tutti coloro che hanno questo 1.400.000.000 di euro in tasca di vecchie lire andassero a cambiarle, magari Alex Richebuono, forse non c'è neanche la cassa pronta per poter fare questo cambio. Sicuramente no, tenete conto che Mario Draghi qua non stampa un bel niente, non per, si sta per questa niente. Evenienza. No, tenete conto che una parte importante di questi soldi sono sicuramente spariti perché sono stati magari già mandati al macero piuttosto che buttati, perché qualcuno probabilmente pensando che non fossero più convertibili li ha buttati. E invece una buona parte sono entrati nel collezionismo, perché c'è un grande collezionismo di banconote antiche, che è una cosa molto interessante e che rende questi pezzi di carta colorati anche di maggior valore rispetto al valore facciale, perché per esempio alcune serie che sono particolarmente rare, mi riferisco a quelle che si chiamavano serie sostitutive, se voi guardate sulle banconote c'è un numero seriale, no? Quelle che cominciavano con l'hai visto tu il numero seriale, Nicoletta, certo, della banconota? Ma certo. Ma adesso impazzisco all'idea che non me ne ritrovo neanche una in casa per andare a guardare, se non altro per curiosità. Ve le porto io la prossima volta eventualmente. Comunque, se voi guardate, esatto, regalo regalone, se voi guardate ci sono dei numeri. Ecco, se questa serie comincia con una X, XE, XA, eccetera, è una banconota sostitutiva. Allora vi faccio un esempio, io mi riferisco, diciamo, ai valori che circolano nel campo del collezionismo, no? Un 50.000 lire, per esempio, serie XE del 1993, 50.000 lire è quello rosellino, perché c'erano due colori, no? Può valere nel mercato del collezionismo fino a 1.500 euro. E quindi insomma bisogna guardare, perché non è detto che andandola a cambiare adesso, a patto che Banca d'Italia ce lo conceda, la nostra banca ci faccia il cambio, forse non conviene tenerli. Noi andiamo lì speranzosi con l'idea di ottenere 25 euro e rotti, e invece potrebbe valere molto di più. Molto incredibile, esatto. Allora andate un po', quindi, subito, attenzione. Chissà stamattina che cosa non stiamo scatenando, cosa non starà succedendo in casa. Non ho neanche un becco, ecco. Niente. Massimo della provincia di Chieti, sentiamo subito che cosa gli è capitato. Massimo, benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Grazie a lei. E anche la trasmissione è molto interessante e sempre puntuale. Allora, io ho letto di questa sentenza, mi sono recato il 30 di dicembre presso l'Agenzia Banca d'Italia di Pescara, che è riferimento Pescara Chieti, portando con me 1.000.000 di vecchie lire. E ho chiesto questo cambio, mi è stato rifiutato mi sono appellato al fatto che una sentenza di Corte Costituzionale resa illegittima una norma riapre ogni qualsiasi diritto. E nonostante questo mi è stato detto dal capo ufficio soltanto che il MEF, in collaborazione con Banca d'Italia, aveva emanato una lettera interna dove, datata 7 novembre, dove dovevano essere eseguiti degli approfondimenti. Approfondimenti che in quel momento non sono stati dati a me e chiariti. Hanno avuto solo due mesi di tempo, Massimo, quindi quando è andato lei in banca per chiedere? Il 30 di dicembre. Ah beh, vabbè, data 30 esattamente. Di dicembre. Allora, non hanno approfondito un bel nulla dunque in queste settimane. Quindi lei ce l'ha ancora lì, Massimo, tornerà alla carica. Certo, ma soprattutto per il fatto che loro aspettano un decreto, ma decreto di cosa? Mi chiedo. Senta, Massimo, a parte questo, adesso aspettiamo, perché lei, da quello che capisco, li vuole cambiare assolutamente. No. Che cos'ha? Banconote, monete? Ci faccia divertire un po'. Sì. Che cosa le è rimasto? Che tipo di taglio ha di banconote? Ah, guardi, sono delle 1.000 lire, sono delle anche 500 lire, sono piccoli tagli, qualche 10.000 lire, qualche 50.000 lire e un po' di 500 lire. Massimo, vada a controllare le serie. Esattamente, perché questo vale anche per le monetine. Ci sono anche delle monete, non solo delle banconote molto rare. Ho letto fior di conio, però c'è il problema del fior di conio. Sì. Lo stato di conservazione delle banconote antiche chiaramente influisce sul valore. Meglio sono conservate, quindi quasi intonse, fior di conio per le monete, fior di stampa per le banconote, conferisce un valore maggiore, perché più passa il tempo, più è improbabile trovare una banconota perfetta e precisa. Certo. Aggiungo un'altra cosa, abbiamo parlato di tagli più bassi, ma non so se vi ricordate, se l'avete mai viste, erano state stampate proprio nell'ultimo periodo della lira le famose 500.000 lire. Certo. Quelle azzurre. Sì, quel colore vivacissimo, azzurre. Molto brillante, esatto. Io mi sa che credo di non averle mai viste. Allora, voi. Ne ho mai incontrato una. Ve le faccio vedere, qua sono queste, erano quelle con Raffaello sopra. Mi ricordo, diciamo, che qualche rappresentazione su qualche quotidiano, su qualche giornale. Non ho mai avuto il piacere di fare la sua conoscenza diretta. Tenete conto che questa banconota è stata votata la più bella banconota mai stampata nella storia delle perché insomma in un unico pezzettino di carta si poteva vedere tutta la storia dell'arte, certo, della cultura del nostro paese. Se l'avessimo in casa, secondo lei, in questo momento, ci conviene tenerla o andare a fare il cambio a 250 euro? Se è mal tenuta, un po' stropicciata, eccetera, cambiatela. Se è tenuta molto bene, tenete conto che il fior di stampa, come diciamo prima, vale sopra i 300 euro, quindi vale di più del valore facciale. Quindi c'è anche chi stabilisce, a seconda dello stato di conservazione, se vale un po' di più o meno ai fini del collezionismo. Corretto, esatto. Incredibile. Allora, adesso abbiamo il traffico, poi torno con Alessandro Pedone invece alla questione sollevata dal nostro ascoltatore di Chieti, di queste banche che chiedono naturalmente una misura attuativa delle disposizioni del MEF che hanno seguito la sentenza della Corte Costituzionale. Insomma, naturalmente le banche, giustamente dico anche io, prendono tempo, vorrebbero qualcosa di più chiaro sulla base di cui agire con i propri clienti. A tra pochissimo. Cuore e denari. 200 lire di castagne sopra il cavalcavia, fiocchi di cenere nel cielo. Ricche Buono, lei ne sa di storia della finanza e dell'economia, ma noi, in quanto a colonne sonore adeguate ai nostri argomenti, non ci batte nessuno. Dobbiamo rendere merito a Laura Vanossi e Marco Lombardo per queste ricerche veramente nella discografia che a volte superano l'incredibile. Allora, voi avete ancora in casa delle lire? Quante, quali, in quali formati, banconote, monete, di quando pensate di collezionarlo, vorreste cambiarle in euro? Teoricamente sareste ancora in tempo, sulla base di quanto ha disposto una sentenza della Corte Costituzionale lo scorso 5 novembre, che ha riaperto la possibilità di convertire le vecchie lire in euro, dichiarando illegittimo un articolo di un decreto del governo Monti, considerandolo non rispettoso dell'articolo 3 della stessa Costituzione. Praticamente Monti cosa aveva fatto nel dicembre del 2011, ricordiamolo, Ricche Buono, sì, aveva detto tutte le... C'era tempo ancora fino all'inizio del 2012, ma lui praticamente abbreviò improvvisamente i termini di 84 giorni, la prescrizione immediata, fine del cambio, esatto, e incameriamo 1.400.000.000 di euro che in questo momento ci fanno comodo, perché in quel momento il paese, ricordiamolo, era... Sì. Sul baratro, mi verrebbe da dire, non è carino utilizzare questi termini, ma era il famoso autunno dello spread a 570 e tutto quello che ricordiamo. Detto questo, Massimo da Chieti, Alessandro Pedone, è andato in banca, era perfettamente a conoscenza delle disposizioni della sentenza della Corte Costituzionale. C'era sfuggito il fatto che due giorni dopo l'emissione della sentenza, il 7 novembre, ha ricordato l'ascoltatore, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha preso subito posizione dicendo noi però un attimo dobbiamo disporre delle misure attuative rispetto a questo, no? Però poi non ha fatto più nulla, Pedone. Sì, no, noi l'avevamo scritto appunto dicendo... Allora mi è sfuggito, mi scusi, sì. Sì, no, l'avevamo scritto dicendo che fate veloce perché c'è il problema della scadenza, quindi il consiglio che io posso dare al nostro radioascoltatore è quello di formalizzare con data certa la richiesta, quindi noi abbiamo per questo pubblicato sul nostro sito un modulo da inviare con raccomandata o con PEC alla Banca d'Italia. Ricordiamo che le singole banche non possono più fare il cambio, non possiamo pretendere dalla propria banca che cambi il milione di lire del nostro radioascoltatore, ma la banca d'Italia, quindi presso le varie filiali di Banca d'Italia, quella che c'è più comoda, di fare la richiesta con data certa, perché il problema, diciamo, la cosa che a noi ci sta un po' scomoda è questi benedetti 84 giorni. Una interpretazione che potrebbe essere, e siccome, come dire, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, una interpretazione che potrebbe essere che vabbè, sono ok, la Corte Costituzionale ci ha detto questo, sono passati gli 84 giorni, chi ci ha fatto la richiesta ci ha fatto la richiesta e chi non ce l'ha fatta, arrivederci e grazie. Ecco, non vorremmo cadere in questa circostanza, quindi anche se non ve li cambiano, fatevi vivi con Banca d'Italia. Con qualche documento che attesti che una richiesta formale c'è, ecco. Noi abbiamo queste lire da cambiare, il testo l'abbiamo pubblicato sul sito, noi abbiamo queste lire da cambiare, le vogliamo cambiare, diteci cosa dobbiamo fare per cambiarle. Perfetto. Allora, intanto 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, le vostre curiosità sull'argomento di questa mattina. Avete delle lire in casa, avete sentito di questa sentenza della Corte Costituzionale, vi siete già attivati per fare il cambio, oppure vi siete detti, ma sai che ti dico, me le conservo, magari ai fini collezionistici, si dice collezionistici, perché buono, fra qualche anno questo piccolo tesoretto potrà valere molto di più rispetto al cambio che potrei ottenere teoricamente in questo momento. Prima di farci raccontare da lei, perché è veramente una faccenda di cuore e denari che ci è piaciuta molto, le faccio sentire qualche altro ascoltatore. Sentirei Stefano d'Ancona. Stefano. Pronto? Buongiorno, buon anno. Buon anno a tutti. Niente, io sentivo la radio e mi sono intromesso in questo discorso. Bravo! Io praticamente, sì, nel passaggio tra le lire e l'euro ho preso 500-600 mila lire da 50 mila lire l'uno, mi sembra, che c'ero a casa, perché era di una serie particolare che su tutti i giornali dicevano che potrebbero in qualche maniera fra 10 anni, 15 anni valere qualcosa. Ce l'ha la serie sotto gli occhi, Stefano? Se ce la dice, glielo diciamo noi. Ma vada a recuperarla se è in tempo. Ci richiama fra 10 minuti e noi gliela guardiamo. Perché non ce la fa. Faccio il commerciale, giro con la macchina. Allora ci mandi una foto nel pomeriggio, perché guardi, noi gliela facciamo una valutazione al volo qua. Sì, allora, a mio suocero è successa una cosa simile, perché si ricordava la serie E, no? In realtà ci deve essere la X davanti, cioè il fatto di avere la E all'interno di quel famoso numero seriale non basta. Quindi, però se nel caso ci volesse mandare le informazioni, possiamo dire subito se è qualcosa, esatto, di valore, Stefano, insomma. Quindi stia lì, oggi pomeriggio magari vada a controllare, faccia una fotina oppure ce lo trasmetta questo codice. È un codice complicato, è come l'ISIN delle azioni. No, sulle banconote, ma c'è anche sugli euro, non è che ce l'abbiamo. Sono come i biglietti della lotteria, serie. Esatto, esattamente. No, ma basta prendere una banconota qualsiasi, io poi ce ne ho un po' di varie valute. Guarda, no? Che portafoglio che c'è, ricche e buone. Delle sterline, per esempio, ecco, questa qui è il numero seriale, sì, no? Sì, piuttosto, certo, che degli euro. Ma io, guardate, mi spiace non avere una telecamera qui dentro per mostrarvi quello che sta accadendo, che ha dell'incredibile. C'ho anche fiorini ungheresi. Ma che cosa ci fa con queste cose qua, nel caso incontrasse, un affarone per strada? Nella vita non si può mai sapere. È un personaggio, che buono, a dire la verità. Allora, senti questa, tu lo sai da che cosa deriva? No, facciamoci il domandone, che lo raccontiamo nella seconda parte della trasmissione. Dai, mi sembra un'ottima idea. Chiediamo agli ascoltatori, suggerendo che deriva da un termine latino, da che cosa deriva il termine lira, che cosa significa. 800 24 00 24, a tutti coloro che indovineranno, che ci daranno la risposta che si avvicina quanto di più a quella corretta, naturalmente, perché poi bisogna raccontare anche tutto una cosa storica precisa. Che cosa possiamo regalare? Ce l'ha qualche bel libro? No, niente dollari. Dei dollari adesso pure stanno vivendo un momento particolare. Sì. Che cosa possiamo regalare? Ce l'ha un libro per i nostri ascoltatori? Sì, assolutamente. Che cosa regaliamo? Possiamo regalare il catalogo della carta moneta italiana, che è un vademecum di tutte le informazioni che stavo cercando di insomma condividere. Perfetto, prima. Grazie molte. Allora, visto che gliel'ho estorto qua in diretta, esatto. Non avevamo preparato nulla. Il termine lira da che cosa deriva? Da un termine latino che è proprio, come dire, un concetto di cuore e denari perfetto, direi. Abbiamo qualche messaggio carino da leggere? Allora, no, tante richieste per fare delle valutazioni di banconote, monete, e cosa possiamo, non vedendole è difficile, no? Capire infatti. Un po' come, potete sempre mandarcelo una fotina via Twitter. Mandateci una fotina, esatto. Chiederemo al nostro esperto. Io andrei però a Milano, c'è Gioconda. Che già il nome è una garanzia da collezionisti e da appassionati d'arte. 800 24 00 24, eccola qua. Bella con noi, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, siamo qua. Sì, buongiorno. Volevo chiedere una cosa. Io ho delle monete da 500 lire che mi erano state regalate da mia madre. Siccome non so che cosa farne, mi dispiace continuare a tenerle lì, volevo sapere, hanno una valutazione, c'è qualcuno che le compra, non so che tipo di valore possono avere. Aspetti di Gioconda, c'è una domanda. Ma le da noi, sì, noi esatto. Le prendiamo. Sono le 500 lire quelle bimetalliche, giusto? Sì, quelle da argento almeno. No, valgono, quelle lì non valgono praticamente, anche se, non so se lo sapete, quella moneta lì era stata disegnata dalla più grande incisore donna, ancora vivente, che è la Laura Cretara, ed è una delle pochissime donne che faceva i disegni per le banconote, per le monete. E la prima serie che era uscita, se non sbaglio, aveva le vele controvento, no, erano sbagliate, no, le hanno ritirate. No, quella è un'altra cosa, quelle sono le 500 lire che si chiamano caravelle, erano fatte da un altro incisore che si chiamava Chionini, ma hanno un altro valore, lì c'è il valore proprio dell'argento, perché solo il valore del metallo prezioso conferisce a queste monete un valore intrinseco, come si diceva, mentre quelle bimetalliche sono fatte di peltro e di un metallo non nobile, quindi non hanno nessun valore da un punto di vista insomma, della preziosità del metallo stesso, insomma. Certo. Ma quante cose interessanti stiamo scoprendo questa mattina. E cosa mattina, deve fare veramente. Gioconda quindi con tutte queste monete? Esatto, diciamo implicitamente che ha detto come ricordo della mamma. Esatto. Magari fra qualche anno c'è la speranza che qualche collezionista appassionato possa, però deve tenere sotto controllo un po' un mercato abbastanza particolare di nicchia. Sì, esatto, poi peraltro anche in quella serie lì bimetallica ci sono state alcune edizioni speciali, no? Per alcuni eventi, perché in passato i soldi, come i francobolli, servivano per celebrare qualche evento particolare, quindi se fossero magari quelle possono avere un leggero valore superiore, ma non tanto. Ecco. Allora, volevo ricordare agli ascoltatori, in molti ci state scrivendo la risposta al domandone che abbiamo fatto prima, anche al 349-238-6666. Allora, io vorrei premiare però chi ci chiama in diretta all'800 24 00 24, generalmente così apriamo la nostra libreria, in questo caso apriamo quella di Alex Ricchebuono, solamente a favore di chi chiama il numero verde ed interviene in diretta con una risposta al nostro domandone. Volevo chiedere ad Alessandro Pedone di ADUC, che è stata l'associazione dei consumatori che ha sollevato con gran forza la questione della sentenza della Corte Costituzionale che riapre i termini per tornare a cambiare, almeno per qualche settimana limitata da quello che abbiamo capito, le vecchie lire in euro. Quante persone si stanno rivolgendo ai vostri sportelli risollevando appunto la faccenda grazie anche al vostro aiuto, e che cosa suggerite di fare appunto in questo momento? Ribadiamo un po', anche se ce l'ha detto nella prima parte del programma Pedone, ribadiamo ancora un po' il vademecum per chi si fosse messo in ascolto ora. Sì, in realtà siamo stati abbastanza stupiti da questa cosa. Noi l'abbiamo sollevata come una questione di diritto, in primo luogo perché non è giusto che ci sia questa scadenza, in molti altri paesi europei non c'è la scadenza, la Bundesbank per dire cambia ancora i marchi dell'altra repubblica, insomma vabbè, è un discorso, ma soprattutto un discorso di diritto, cioè non è giusto che esista un diritto e lo Stato non faccia niente per dare certezza del diritto di esercitare questa cosa. Quindi abbiamo prima appunto soprattutto sollecitato le autorità a dirci rapidamente quello che dovevano fare, in modo particolare la Banca d'Italia e il Ministero delle Finanze. Vedendo che non c'era risposta, abbiamo semplicemente messo sul nostro sito internet copia di una richiesta da inviare alla Banca d'Italia e abbiamo chiesto di inviarci per conoscenza questa lettera inviata, e siamo stati sommersi. Certo. E tuttora sostanzialmente arrivano qualcosa come una o due richieste al giorno, magari al giorno, ogni 5-6 minuti. Ah, ecco, accidenti. Si fermi lì, ci torniamo dopo il giornale radio, a tra poco. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Cuore e denari. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Allora, effettivamente con questo cambio tra l'euro e il dollaro, adesso andare negli Stati Uniti a fare dello shopping non è che sia proprio convenientissimo. Io lo ricordo sempre, c'è stato un viaggio molto fortunato che ho fatto. L'euro era 1,40 sul dollaro, ho fatto incetta, mi era andata veramente bene. Adesso invece qua stiamo scivolando sempre di più verso la parità. Per cui, allora, detto questo, però, non è detto che conservando magari qualche dollaro, un dollaro, una moneta di dollaro particolare, sì, lui ce l'ha nel portafoglio, ma una pregiatissima qual è, Alex Richebuono? Allora, chi deve raffigurare, sì, qual è presidente americano? Allora, i dollari esistono dal 1961, sono identici, no? Ma prima del 61 c'erano tantissime serie, e prima del fine di Bretton Woods c'erano le banconote che erano convertibili in metallo, d'oro e d'argento. Gli americani sono matti per il collezionismo. Ci sono alcune banconote a taglio alto, i $1,000, 5,000, che sono andate nel collezionismo a valori superiori al milione di euro. Cioè delle cifre che fanno tremare i polsi, insomma. Mm-hmm. Sì, quindi ci sono delle banconote rarissime che gli americani si scambiano per dei prezzi incredibili. Non è che siamo impazziti, stamattina parliamo di questo argomento solo perché, mica tanto solo, una sentenza della Corte Costituzionale lo scorso 5 novembre ha riaperto i termini per poter cambiare le nostre vecchie lire in euro, termini che si erano interrotti brutalmente nel dicembre del 2011 per effetto di una disposizione del governo Monti, sulla quale non ritorniamo. Adesso si sono riaperti, ma a quanto pare chiaramente con qualche difficoltà da parte della Banca d'Italia a mettere a disposizione tutte le risorse teoriche che sarebbero necessarie per questo cambio, che poi non è detto che questo 1,4 miliardi di euro teoricamente ancora in circolazione come vecchie appunto lire, se si vadano a cambiare, però anche fossero solo la metà non è detto che ci sia questa liquidità disponibile immediata. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Ancora per qualche minuto di tempo c'è un'associazione dei consumatori che sta cercando di seguire questa vicenda per dare le corrette informazioni a quegli ascoltatori che comunque vogliono disfarsi delle vecchie lire e andarle a cambiare e riportarsi in euro a casa. C'è invece chi, per questioni affettive o magari un po' più in realtà interessate queste lire se le vuole tenere in casa, perché a seconda delle loro caratteristiche possono anche valere qualcosa di più del loro valore. Corretto. In termini di cambio. Sentiamo se è il caso di Maura da Modena. Buongiorno Maura, benvenuta e buon anno. Buongiorno, benvenuti, grazie a voi della compagnia che tutti i giorni mi fate. Grazie. Siete molto carine, molto piacevoli. Io così ascoltandovi mi sono ricordata che ho alcune monetine proprio di una lira, di due lire, di 10 lire, 5 lire, del 1954, guardato, poi magari non vedo benissimo, per cui leggo 1963. E le monete delle due lire hanno sopra un disegno dell'ulivo da una parte e dalla parte successiva, dall'altra parte non riesco a capire se è una mosca o se è un'ape. Un'ape. Maura. Ok. Sì, e qui, insomma, andiamo alla ciccia, Maura. Valgono qualcosa o no queste monetine? Vuole sapere? Trovo anche un 1,000 lire in metallo. Ah sì, quelle d'argento. Mm. Metà argento e metà dorate. Ah, ho capito, quelle bimetalliche. Ok, sì, ho capito. Allora, Maura, che cosa ci facciamo? Ci facciamo un bel braccialetto con queste monetine, una collanina, oppure le andiamo a cambiare o ce le teniamo, non facciamo un bel niente? Alex, sei ricco e buono. Esatto, che è il nostro esperto. Esatto, al di là del valore affettivo, purtroppo queste monete valgono poco, eccetto, c'è solo un caso, che sono le 5 lire, quelle che avevano l'aratro dietro, è del 56, del 1956. Ah, quelle dell'aratro me le ricordo. Esatto, quelle lì effettivamente sono molto rare, se uno se le dovesse ritrovare, la data è del 1956, se tenute bene, il famoso fior di conio giù di lì, possono valere diverse centinaia di euro. L'anno della famosa nevicata, esatto, come cantava Mia Martini, esatto, no? Allora, dunque, abbiamo Eros, sì, da Bologna. Ricordiamo, ma vorrei anche il domandone, magari, certo, per gli vai ultimi minuti. Il termine lira deriva da un termine latino, che cosa significa? L'aiutino è che è un termine proprio adatto a Cuore Denari. 800 24 00 24 per ricevere a casa il libro che gentilmente oggi ci dona Alex Ricchebuono, che è? Che è La storia della carta moneta italiana e il suo valore. Benissimo. Allora, all'800 24 0024, mentre un messaggio ci arriva da un ascoltatore che vuole sapere quanto valgono le sue 500.000 lire della serie XA e WA. Allora ci chiede, le cambio, le vendo? Non ha messo l'opzione le regalo. Abbiamo scatenato dei mostri. Esatto, esatto. Allora, come dicevo prima, bisogna guardare lo stato di conservazione. Se sono ben conservate, il fior di stampa. Il concetto del fior di stampa, esatto, questa mattina ha dell'incredibile. Sì. Diciamo che se non è anche fior di stampa, è splendido, come vengono definite dai collezionisti, può essere comunque interessante, perché i valori oscillano tra i 300 e i 400 euro per la serie XA del 500.000 lire, quindi più del valore facciale. È chiaro che è difficile valutare così senza vedere, no? Quindi sì, nella peggiore delle ipotesi è meglio cambiarle in banca se ancora ce le cambiano. Esatto, ecco. Nella migliore uno se le tiene. Comunque tenete conto che sono serie molto rare, per cui si spera che col tempo possano continuare ad aumentare di valore. Esatto. Tra l'altro, Alessandro Pedone, nel decalogo su che cosa si deve fare in questo momento se si volessero cambiare le vecchie lire in euro, per stabilire se anche queste banconote, queste monete hanno un valore, Aduc ha suggerito sul suo sito di andare chiaramente a controllare su siti specializzati. Loro dicono: noi non siamo competenti per valutare alcune situazioni, no Pedone, voi avete suggerito di andare sul sito www.cartamonetaitaliana.com. Sì, esatto, sì, ce lo conferma Eri. Sì, sì, mio caro amico Pedone, quindi avete fatto anche in questo caso una buona consulenza. Ma che cosa le sembra di questo mondo che sta venendo fuori questa mattina dalla nostra trasmissione? Perché a quanto pare qua forse qualcuno è più stuzzicato dall'idea di tenersi queste banconote e queste monete per vedere se fra qualche anno avranno un valore ai fini collezionistici. Pedone. Certo, ovviamente noi ci occupiamo di questioni giuridiche, legali, finanziarie, eccetera, quindi è un mondo per noi sconosciuto, però ci è sembrato corretto, se diamo indicazioni di cambiare, insomma far capire, certo, anche che c'è questa eventuale possibilità. Non so quanto, che percentuali di persone possono avere in realtà monete che valgono di più o banconote che valgono di più di quello del cambio, però basse. È corretto far presente anche questa possibilità. Ecco. Nella modulistica che voi avete predisposto e resa disponibile a quelle persone che volessero sollevare subito la questione con la Banca d'Italia perché vogliono cambiare le loro vecchie lire che hanno in casa, magari alla fine, che ne so, anche per eredità si sono trovate un gruzzoletto, hanno ripulito una casa di un nonno che non c'è più, di una zia che non c'è più, e sappiamo molto bene come molti anziani, no, in passato magari non si sono sbrigati a fare tutto il cambio, in qualche cassetto ci si ritrova magari una bella malloppina anche di banconote. Voi avete predisposto appunto questo modulo. Che informazioni è necessario avere a disposizione appunto per poterlo compilare correttamente? Poi lei diceva questo modulo, questa richiesta va inviata alla Banca d'Italia. Con che modalità raccomandata, appunto, posta elettronica, che facciamo? Ricordo, la cosa importante è la data certa, quindi se si ha la possibilità di usare una PEC, quindi una posta elettronica certificata, si può usare questa, altrimenti una raccomandata oppure una raccomandata a mano presentandosi direttamente presso la sede della Banca d'Italia. Il ricordo capoluogo. Sul nostro sito internet, che è semplicissimo, il nostro nome è Aduc, www.aduc.it, si può scaricare il modulo gratuitamente, ovviamente come tutti i nostri servizi sono per i cittadini. E la cosa importante è la data certa, è farlo entro, noi diciamo, entro il 28 gennaio, il prima possibile, ma noi siamo confidenti. Interrompiamo qualunque altra prescrizione dovesse mai materializzarsi, no? Esattamente. Quindi le sollecitazioni sono molto semplici: scaricare il modulo dal nostro sito, che è www.aduc.it, inviarlo con data certa, quindi o con lettera raccomandata o con PEC, o con raccomandata a mano, quindi andando lì, consegnandolo e farti firmare una ricevuta. Tutto qua. Grazie ad Alessandro Pedone. Rubo solo un minuto a Nicoletta Carbone per velocemente Eros da Bologna e poi Daniela da Roma che risponde al domandone. Eros, benvenuto, velocissimo, grazie. Buongiorno. Volevo un'informazione intanto. Io vado ancora più indietro al problema lira da cambiare. Cosa c'hai, sesterzi a casa, no? Mi sono trovato da mio padre, che purtroppo non c'è più, una collezione dei mini assegni degli anni 70. Sì. Quando ci fu, diciamo, l'austerity, la crisi negli anni 70, che le banche misero fuori dei piccolissimi assegni circolari da 50 lire, 20 lire, sì, così. Volevo sapere se veramente potevano valere qualcosa o erano solo carta. Grazie Eros, purtroppo c'è stato un periodo in cui venivano collezionate e avevano anche aumentato il loro valore. Purtroppo oggi i collezionisti sono pochissimi, ce ne sono tanti in giro di questi mini assegni, per cui purtroppo non valgono un granché. Pure quello è un mercato che ha delle quotazioni che scendono, salgono, insomma. Sì. Daniela da Roma, benvenuta. Daniela, ciao Rigoletta. Siamo tutte e due, può parlare anche con Giovanna, Francesca, come preferisce Daniela. No, ci siamo tutte e due. Il termine lira da che cosa deriva? Allora, l'etimologia proprio classica è libra, che è pure il nome del segno zodiacale della bilancia. Corretto. Poi indica la bilancia con cui venivano pesate le monete ed era le 12 once d'argento. È per questo che io ho detto che è un concetto molto cuore denari, perché qua la bilancia è sempre virtualmente presente con le nostre diete e anche il nostro col corretto centimetro. Stile di vita. Esatto. Posso dire una cosa velocissima che è interessante? Ha risposto correttamente, ha Daniela. Ha risposto correttamente e non solo libra serviva come termine per misurare la bilancia, ma poi diventa anche proprio un peso, la libra, la famosa libra, no? E dalla libra d'argento, nel corso dei secoli, si sono tirate fuori le monete più importanti, tra cui 240 denari, da cui denaro, denarius, no? E con la riforma di Carlo Magno, la riforma carolingia, per circa 800 anni circola in Europa solo argento. E infatti, non so se vi siete mai posti la domanda, ma la maggior parte dei soldi, delle divise in giro per il mondo, derivano dal termine argento. In francese come si dice soldi? Argent. E come dicono argent de poche. De poche, esatto. E come si dice, per esempio, in spagnolo, argento, soldi in maniera colloquiale, plata, plata sì. O il dinero, è il dinero, sì. Sempre da denarius, denaro in argento, non solo. Le sterline, sterling, one sterling pound, voleva dire una libra d'argento. O le palanche genovesi di Govi. Allora, esatto, erano appunto... Tu lo sai che se non lo fermiamo qua andiamo avanti ancora fino oggi pomeriggio alle 17, ci occupiamo anche come focus economia. Da palancos, quindi dal portoghese e dallo spagnolo, erano proprio le libere, i tondini d'argento da cui venivano tirati fuori i soldi. Ricche Buono, lei è straffascinante, lo sa che noi ci siamo innamorati di lei seduta stante, purtroppo però le devo sottrarre il microfono, con la promessa ai nostri ascoltatori di fare magari una bella iniziativa con Alex Ricche Buono per andare proprio a caccia dei tesoretti delle nostre soffitte, per capire anche quali sono gli interlocutori giusti ai quali rivolgerci per avere delle corrette valutazioni, insomma, e magari anche per raccontare delle curiosità storiche che stamattina ci hanno appassionato molto. Grazie per essere stato con noi. Buon grazie anno. A voi, poi qua cuori e denari, cuori e denari. Rai 5, la trasmissione, il documentario si chiama Money and Art. Oggi pomeriggio alle 5, domani alle 6:30, guardate sul sito Rai 5 Money Art, sicuramente interessante. Così lo potete anche conoscere. Grazie. Fisicamente questo occhione blu che colpirà anche tutte le nostre ascoltatrici. Grazie. Troppo buono. Grazie. Cambiamo tema. Manca del sangue, rispondete, qui il rosso del pronto soccorso. Una metro. Eccola. Grazie. Fatemi sapere quanto sangue c'è disponibile. Ha perso sangue? Non molto. Emorragia di lieve entità. Dategli 6 unità di zero negativo. Avvertite la sala operatoria che stiamo arrivando per una laparotomia. E torniamo ad occuparci della donazione del sangue. A fine dicembre sono entrati in vigore i nuovi requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. È un documento frutto di un lungo lavoro di revisione che aggiorna, pensate a distanza di 10 anni, la normativa su sangue ed emocomponenti raccolti dalla donazione volontaria e non remunerata, comprese quelli utilizzati per la produzione di medicinali derivati dal plasma e sugli emocomponenti. Un cambiamento importante per il sistema sangue nazionale, di cui parliamo oggi con il dottor Aldo Zino Caligaris, presidente nazionale FIDAS, che vi ricordo è la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. Buongiorno e bentornato. Buongiorno Deborah Rosciani, buongiorno Nicoletta Carbone, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dottore, ogni anno in Italia avvengono oltre 3 milioni di trasfusioni di sangue, ma nel decreto si parla di emocomponenti. Ci spiega che cosa sono? Gli emocomponenti sono le parti che compongono il sangue. Il sangue è composto fondamentalmente da una parte liquida, che è il plasma, e da una parte corpuscolata, le cellule, che sono i globuli rossi, le piastrine e i globuli bianchi. Ai fini della terapia trasfusionale sono molto importanti i globuli rossi per affrontare tutte le criticità emorragiche, di carenza appunto di emoglobina e di globuli rossi. Le piastrine importantissime per tutti gli aspetti legati alla coagulazione e il plasma perché ricchi di tante proteine come i fattori della coagulazione, l'albumina, le immunoglobuline, l'antitrombina terza, che sono poi estratte attraverso dei procedimenti industriali e trasferiti in farmaci che sono appunto i farmaci emoderivati. La ringrazio. Io approfitto di questa prima parte della parte di cuore per cercare un po' di fare un po' una precisazione di tutti i termini che vengono utilizzati. Il testo, ad esempio, definisce criteri di qualità e sicurezza anche per emocomponenti ad uso non trasfusionale. Di che cosa si tratta? Ecco, gli emocomponenti non trasfusionali sono sempre quella parte del sangue ottenuti quindi dalla lavorazione dello stesso con degli appositi dispositivi che vengono poi utilizzati a livello locale, quindi non più per uso trasfusionale endovena, come appunto vengono trasfusi i globuli rossi piuttosto che i fattori della coagulazione o il plasma per uso clinico, ma che vengono utilizzati per esempio per azione locale su lesioni cutanee o delle mucose aperte per favorire la cicatrizzazione o applicate in via diretta in sedi chirurgiche, per esempio in importanti interventi ortopedici, per facilitare poi il recupero funzionale post-operatorio o addirittura come infiltrazioni nei tessuti. Questa è la definizione degli emocomponenti per uso non trasfusionale che vengono per la prima volta normati in un apposito capitolo di questo decreto e di cui vengono stabiliti anche i criteri e i requisiti di qualità oltre che di standardizzazione per la loro preparazione. Tra l'altro il decreto valorizza sempre di più l'attività volontaria, anonima, gratuita e non remunerata dei donatori di sangue e di emocomponenti. Ma l'Italia è uno dei pochi paesi in cui la donazione è volontaria. Si tratta di una peculiarità da difendere o l'incentivo economico potrebbe far aumentare il numero dei donatori? Ma sinceramente io come rappresentante associativo non posso che difendere ovviamente la scelta del nostro paese di basare tutto il sistema trasfusionale a garanzia del buon funzionamento del sistema sanitario nazionale sulla donazione volontaria, anonima, gratuita e non remunerata soprattutto del sangue e dei suoi componenti. Questa è una scelta che di fatto privilegia la disponibilità del cittadino di compiere un gesto in maniera responsabile, in maniera proprio volontaria e facendo in modo che attraverso quello che è la specifica disponibilità del singolo soggetto si possa avere una terapia disponibile per tutti i cittadini bisognosi. E ricordo che nel nostro paese abbiamo 1.700.000 donatori, di cui il 90% sono donatori periodici associati, che è il più alto indice in tutto il mondo di donatori periodici associati. E questo probabilmente è il maggior elemento che qualifica e giustifica questa scelta di valorizzazione della donazione volontaria non remunerata. 800 24 00 24, se siete tra questi chiamateci, oggi vogliamo invitarvi a raccontarci, a pensare ad uno slogan che inviti e racconti anche il gesto della donazione, che è un gesto che salva la vita. Ma dottor Ozzino Caligaris, spenderei ancora alcuni minuti per leggere tra le righe del decreto e vorrei commentare anche con lei, vorrei condividere con lei anche un'altra riflessione, perché negli ultimi anni abbiamo sentito, per fortuna pochissime volte, di scambi di sacche di sangue, eventi drammatici, a volte anche tragici. Cosa prevede il decreto del Ministero della Salute in merito? Sono previsti dei sistemi per garantire la massima tracciabilità del sangue? Dunque, questo è un altro aspetto che viene trattato proprio ai fini della prevenzione degli errori, cosiddetti errori trasfusionali, che avvengono non tanto quando si attribuiscono le unità al ricevente, ma quando proprio al letto del paziente avvengono quei tragici eventi che sono lo scambio di unità di sangue trasfuse magari al paziente sbagliato. Al fine di evitare questi errori e quindi assicurare la massima proprio garanzia per quello che riguarda anche la tracciabilità del sangue, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, quindi dalla data del 29 dicembre 2015, dovranno essere messi in atto dei braccialetti identificativi o dei sistemi elettronici equivalenti per far sì che ci sia un'identificazione univoca tra il paziente che deve ricevere la trasfusione e l'unità di sangue, l'unità di emocomponente che in questo caso il paziente deve ricevere. Questo per garantire anche una maggiore tranquillità, certo, per gli operatori stessi che sono poi gli esecutori della trasfusione, ma soprattutto per garantire un percorso che dalla donazione al ricevente, quindi da vena a vena, garantisca una totale tracciabilità di tutto il percorso del sangue e degli emocomponenti utilizzati appunto per uso clinico. Parleremo naturalmente anche di cosa produce, quali cambiamenti produce questo decreto per chi va a donare. Se siete donatori, 800 24 00 24, avete dei dubbi, se vi state autoescludendo dalla donazione, approfittate dei nostri esperti, degli esperti FIDAS, che anche dopo la diretta di Cuore Denari, dalle 12 alle 13, risponderanno alle vostre richieste, alle vostre dubbi, alle vostre domande. Potete inviare una mail a Cuore Denari, ma potete anche usare l'hashtag, insomma l'asterisco, oggi dono, e riceverete dagli esperti FIDAS una risposta al vostro dubbio, perché sono tanti, dottor Ozzino Caligaris, gli ascoltatori che ci stanno scrivendo e manifestando, raccontandoci un po' i loro dubbi, anche i loro piccoli problemi. Ad esempio Alessandro via WhatsApp ci scrive: sono un donatore ma anche ciclista, se pedalo scendo sotto 13 di emo, come fare? Allora apriamo il capitolo dello sportivo che è anche donatore, a quali problemi può andare incontro e come può affrontare, no, questa situazione? Allora, ovviamente uno sportivo, ma soprattutto uno sportivo agonista, deve rispondere a quelle che sono le sue necessità di preparazione atletica, però in qualsiasi caso una persona che è in buone condizioni di salute non ha controindicazioni per conciliare l'attività sportiva con l'eventuale donazione del sangue. Anche un'attività fisica importante, quindi un impegno muscolare di un certo livello, comporta a volte una riduzione dei globuli rossi, perché i globuli rossi attraverso l'attività muscolare possono essere catabolizzati. Di fatto però questo di solito non succede ed è compatibile quindi la donazione con un'attività sportiva anche agonistica, controllando e monitorando però quelli che sono i parametri fondamentali che sono oggetto della valutazione dell'idoneità del donatore. E ricordo poi che il giudizio di idoneità nel nostro paese, in Italia, è affidato, e questo è un caso unico in tutta l'Europa, a un giudizio di un medico, che quindi può valutare con la massima attenzione quelli che sono i parametri fondamentali per garantire innanzitutto il donatore e per garantire successivamente il ricevente. Allora, adesso noi ci fermiamo perché andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati, Deborah. Sono pronta. E poi ritorniamo subito dopo insieme con il dottor Aldo Zino Caligaris, presidente nazionale della FIDAS, puntata dedicata ai donatori del sangue, alla donazione del sangue, questo gesto così prezioso che può salvare la vita. La puntata di oggi, che prende spunto proprio dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto, vuole essere anche un'occasione, vuole dare l'occasione a tutti coloro che ci stanno ascoltando di trovare una risposta al loro dubbio. Tutte le volte che parliamo di donazione del sangue arrivano davvero tantissime mail e abbiamo notato che c'è una sorta di autoesclusione, che sulla donazione del sangue circolano ancora leggende metropolitane, c'è un vuoto di informazione che noi oggi, in collaborazione con gli esperti della FIDAS, vogliamo cercare in parte di colmare. Quindi restate con noi, chiamate il nostro numero verde e approfittate poi della nostra iniziativa che vi descriverò nuovamente dopo i mercati. A tra poco. Cuore e denari. Ci vuole calma e sangue freddo. Oh, yo, yo, oh, yo, yo. Calma e sangue freddo. Calma. Eccoci di nuovo insieme. La puntata di oggi prende spunto dalla recentissima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre. Ti sono piaciute tutte queste S? Ne le siamo... sei messe apposta, volevi fare lo scioglilingua di inizio anno? Ne stiamo parlando con il dottor Aldo Zino Caligaris, che è presidente nazionale FIDAS. Dottore, tantissime chiamate all'800 24 0024. Apriamo tra pochi i microfoni, ma... concretamente che cosa cambia per chi va a donare? Dunque, fondamentalmente la cosa più interessante è che sono state definite delle linee, per esempio per la predisposizione di un questionario unico nazionale per garantire una maggiore uniformità del trattamento del donatore in tutto il paese rispetto a quello che era uno schema tipo utilizzato precedentemente e che ha permesso nel tempo tanti adattamenti. Quindi un sistema di selezione basato su un questionario unico che predispone praticamente oltretutto un testo diversificato, un testo valido per i donatori al primo accesso, quindi per i donatori nuovi, molto più esteso, molto più completo, che parte anche dalla richiesta di aver contratto in età infantile malattie esantematiche, quindi le cosiddette malattie dei bambini, rispetto a un test invece molto più essenziale, molto più sintetico per il donatore periodico, per quel donatore che dona sistematicamente entro i 24 mesi e che quindi è un donatore che già ben conosce quelle caratteristiche per poter accedere alla donazione. Dottore, ci sono delle c'è una cosa interessante di cui vorrei parlare con lei e naturalmente confrontarmi anche con gli ascoltatori, che riguardano i criteri di sospensione per comportamenti a rischio e non per categorie. Sì, questa è una scelta particolare che ci distingue anche dal resto di Europa e di molti paesi del mondo. È una scelta che è stata già introdotta dall'anno 2001 con gli equivalenti decreti dell'allora ministro Veronesi e che praticamente fanno una scelta di escludere i donatori per comportamento a rischio, soprattutto per quelli che sono rischi di abitudini, di stili di vita, come uso di droghe, di alcol o di comportamenti sessuali e non per categorie di persone. E è una scelta importante. Assolutamente importante, vogliamo sottolinearlo perché non discrimina. Non c'è una discriminazione e nessuna invece persona può essere esclusa, può essere considerata idonea se non viene valutata esattamente per quelli che sono i suoi comportamenti. Quindi da una parte richiede una massima attenzione da parte della valutazione, da parte appunto del medico, ma dall'altra parte richiede una massima attenzione, una massima responsabilità da parte del donatore nel dichiarare con molta onestà e lealtà quelli che sono le sue abitudini e quindi consentire di fare una selezione di massima sicurezza. Consideriamo che poi ogni singola unità viene sottoposta ha delle analisi che sono molto approfondite per la ricerca degli anticorpi, delle malattie trasmissibili con il sangue e quindi con la trasfusione, ma ovviamente la maggiore proprio sicurezza parte proprio dall'anamnesi, parte proprio dalla valutazione e dai criteri di analizzare questi comportamenti come elementi di massima sicurezza. C'è poi l'estensione, questa è una buona notizia, dell'età a 70 anni, prima era fino a 65, è corretto? Sì, per cui stato definito in maniera molto 5 corretta. Anni in più di donazioni. Allora, la salute del cittadino e l'età media dei nostri cittadini italiani sta aumentando, certo. Questo è un dato statistico. Di fatto sta aumentando anche la qualità della vita, per cui persone che oggi hanno 65, 68, 70 anni, se non hanno patologie di base metaboliche o legate a determinati apparati come l'apparato cardiocircolatorio o respiratorio, godono oggi di ottima salute. Quindi se c'è la salute si può donare sino a 70 anni, questa è una bellissima notizia. Previa ovviamente una valutazione clinica di questi fattori, sempre legati alla valutazione medica in fase di donità. Allora, 800 24 00 24, come valutate questi cambiamenti? Lo chiedo ai donatori all'ascolto, ma mi piacerebbe sapere se queste modifiche saranno anche uno stimolo per chi ancora non lo è a diventare donatore. Abbiamo Deborah, Paolo, allora, sì, Andrea. Andiamo subito verso il sud Italia, Paolo da Caserta, buongiorno. Benvenuto e buon buongiorno anno. Buongiorno a voi, grazie di tutto. Ci allora, dica. Io prima di tutto sono un donatore. Posso dire che non c'è nessun, almeno io da parte mia, nel momento in cui, quando il giorno che dono, non accuso niente, sto bene. Anzi, chiedo al professore se posso incorrere in qualcosa, ma no, perché già l'avete detto. Sì. Quindi invito tutti a farlo, perché è un gesto che al momento occorre molto. E poi telefonavo per quanto riguarda mio figlio, ha 10 anni e gli è stata riscontrata un'anemia ipocromica. Non lo so. Questa era una sua domanda, Paolo, per da rivolgere naturalmente al nostro esperto, al dottore. Sì, sì. Certo, il bambino di Paolo ha 10 anni, quindi ci auguriamo che diventerà donatore in un futuro, perché bisogna avere 18 anni, ma la domanda, dottor Ozino Caligaris, la domanda di Paolo riguarda proprio il figlio, questa anemia, sì. che cosa può portare? Ah, dunque, allora intanto ringrazio Paolo per la sua disponibilità alla donazione e poi perché ha sottolineato un aspetto fondamentale, cioè che la donazione non comporta rischi per il donatore, e questo è un aspetto molto importante. E poi per quello che riguarda l'anemia ipocromica del bambino, ovviamente deve essere valutata sulla base di esami approfonditi, che sono esami dei parametri chimico-clinici, per permettere un'individuazione del motivo per cui, in carenza di ferro o di sua mancato assorbimento, ci può essere una diminuzione del numero dei globuli rossi, dettato proprio dalla mancanza di disponibilità di questa preziosa risorsa che è il ferro, che serve per costruire, diciamo, nel nostro organismo l'emoglobina, e che determina poi la proteina che serve a trasportare l'ossigeno ai tessuti, e quindi l'elemento fondamentale che caratterizza proprio la funzione dei globuli rossi stessi. Quindi direi sottoporre il bambino a questi accertamenti e fare una corretta valutazione, probabilmente per superare questo e risolvere in maniera definitiva questa leggera forma di anemia. C'è chi vorrebbe donare e non può, questo lo sappiamo bene, a volte l'indicazione a non donare è temporanea, a volte definitiva, ne parleremo anche alla luce delle nuove modifiche, ma in molti casi, come anticipavo, c'è una sorta di autoesclusione. Ci sono ancora molti luoghi comuni, leggende metropolitane, vuoti di informazione che allontanano molte persone dalla donazione. Per questo oggi vogliamo lanciare un'iniziativa che ha proprio l'obiettivo di fare luce e togliere ogni dubbio per rompere sciogliere ogni indugio. Andate quindi sul nostro profilo Twitter, il profilo di Cuore Denari, scrivete tutti i dubbi e le vostre domande, usate l'hashtag o cancelletto che dir si voglia, oggi dono, fino alle 13, gli esperti vi risponderanno. Oppure mandateci una mail a cuoredenari@radio24.it. Con lo stesso hashtag oggi invitiamo i donatori all'ascolto a scriverci uno slogan che inviti anche i nostri ascoltatori alla donazione, ma che racconti anche tutto quello che la donazione rappresenta per chi dà e per chi riceve. Insomma, 140 caratteri per raccontare la bellezza di questo gesto. Allora andiamo da Andrea, che ci chiama da Vicenza, e poi andiamo subito dopo a Massimo da Roma. Andrea. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora e vostri ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Anch'io voglio dirvi il mio contributo come donatore periodico per invitare a fare questo gesto. E molto brevemente, sì. La donazione si prenota, quindi il tempo ne perdo pochissimo. Io ho un'attività lavorativa, quindi non posso permettermi di perdere la mattina. Adesso con le prenotazioni che da qualche anno che si fanno, si arriva là in 5 minuti, si è già visitati, si può andare a donare. Bravo, quindi prenotarsi per portarsi avanti e non perdere tempo. Siamo controllati ogni donazione e ogni 3 mesi c'è l'esame completo del sangue, gratuito, quindi è anche un modo per tenersi sotto controllo la salute. Infatti, ci sono dei vantaggi anche per il donatore. Certamente, il personale è sempre cordialissimo ed è un bello stare, insomma, a quel tempo che si perde, che in tutto riguarda una 40 di minuti, massimo un'ora che si sta lì, è sempre piacevole. Si fa una bella colazione perché ti danno anche una bella ospitalità. Vero? Che... dire, è giusto. La colazione del donatore, mi scusi Andrea, l'ho interrotta, la colazione del donatore, tutti i donatori... So Ma è meravigliosa perché c'è il panino con la pancetta, con la soppressa, c'è il caffè, c'è il succo, c'è una colazione ricca ovviamente perché si è donato sangue. Abbiamo annullato la trasmissione di ieri, qualche noce no. A parte gli scherzi, no, alla grande. È un pizzicotto sul braccio che, ripeto, è come una punturina qualunque, quindi non si deve avere nessuna paura, è un gesto meraviglioso. Mi chiamano anche qualche volta perché ho un gruppo particolare che serve molto, di sangue ce n'è sempre bisogno, facciamolo perché è un bellissimo gesto che non costa pochissimo, insomma. Grazie Andrea per la sua testimonianza che scalda il cuore. Allora, le leggo, dottor Ozzino Calligaris, un messaggio che ci arriva da Andrea, ha 28 anni, ha un rene solo a causa di un incidente, il suo sangue è 0 negativo e quindi ci dice prezioso, può donare? Dunque, questa è una domanda importante perché se i suoi parametri chimico-clinici lo consentono, può assolutamente donare il sangue. E in quanto la funzionalità renale, se è ben supportata da un unico rene, non comporta un'esclusione dalla donazione, però deve essere appunto valutato correttamente e quindi il donatore, prima di essere sottoposto alla donazione, il candidato donatore, dovrà essere verificato attraverso proprio dei controlli che sono specifici e che devono essere mirati a verificare questa sua idoneità e quindi questa sua funzionalità renale, se è giustamente compensata dall'unico rene che ha il candidato donatore. Per tutte le vostre domande, quindi 800 24 00 24, poi hashtag oggi dono, dalle 12 alle 13 gli esperti FIDAS vi risponderanno e potete naturalmente mandarci le mail a Cuore Denari. Adesso ci fermiamo per dare la linea al traffico e ritorniamo subito dopo con Massimo da Roma, tra poco. Cuore e denari. Eccoci qui, siamo tornati insieme. Oggi stiamo parlando dei donatori di sangue. 800 24 00 24, chiamate, chiedete e donate, ma se vi restano dubbi o non riuscite a trovare una risposta, dalle 12 sino alle 13 gli esperti FIDAS saranno a vostra disposizione sul nostro profilo Twitter o via mail a Cuore Denari. In linea con noi abbiamo il dottor Aldo Zino Calligaris, che è presidente FIDAS, e abbiamo anche Massimo da Roma. Buongiorno Massimo. No, eccoci qua. Eccoci. Io sono un vostro fedele ascoltatore. Bravo. Lei ha buon gusto, è simpatico, è anche donatore. Gli uomini fedeli a noi piacciono. Medaglia oro platino come donatore, ci tengo molto, condivido l'entusiasmo e tutto quanto ha detto il precedente ascoltatore, perché veramente è un piacere andare a donare. è una cosa che ti gratifica molto e questo è importante. E sono d'accordo anche sul fatto che debba essere gratuito e volontario, proprio perché così almeno c'è la vera intenzione a fare queste cose. E, pronto? Sì, siamo qua. Scusi. E poi invece una domanda. Io negli ultimi tempi, purtroppo, da qualche mese sono diventato iperteso, non so se a seguito di qualche problema o meno, e mi hanno detto che è controindicata la donazione. Volevo sapere... Ecco, una domanda da 100 punti, perché sta arrivando anche al 349-238-6666. La pressione, quindi. Ecco, pressione alta, come sta traducendoci Deborah. Ha delle limitazioni alla donazione? Dunque, l'ipertensione deve essere valutata come esclusione temporanea e proprio per un criterio di protezione del donatore. Allora, ci sono situazioni di ipertensione sotto controllo farmacologico e senza danni d'organo che consentono la donazione. Quindi consiglio al nostro donatore ormai pluripremiato e fidelizzato di fare un colloquio con il medico selezionatore e ovviamente fare valutare i suoi parametri di pressione e soprattutto prendere in considerazione l'eventuale terapia farmacologica che sta assumendo, perché sulla base di questi elementi si può stabilire se, non essendoci danni d'organo appunto a causa della pressione elevata, il donatore possa continuare a donare. E allora, i donatori all'ascolto, l'invito è di scriverci o di chiamarci per raccontarci, per pensare ad uno slogan che inviti alla donazione, ma che racconti anche tutto quello che la donazione rappresenta per chi dà e per chi riceve. E allora scende in campo e ci fa da apripista un attore, un comico che ci sa donare il sorriso. Abbiamo il piacere di avere con noi Gabriele Cirilli. Ciao, bentornato. Buongiorno. Ciao, ma Gabriele. Che bello essere con voi, tra l'altro, mentre state trattando un argomento così importante. E anch'io mi associo, bisogna donare i sorrisi, ma soprattutto donare il sangue. È io vero. Ho una piccola esperienza, Gabriele, con mia Cirilli, madre. No? Insomma, noi, noi ci siamo conosciuti il 14 luglio a Pescara, proprio in occasione di una manifestazione di Benissimo. Donatori di sangue. Infatti mi ricordo, perfetto, vedi? Vedi che carambata! Non dico bugie. È vero, confermo. Tra l'altro noi, Gabriele, l'abbiamo mandato, abbiamo chiesto ai nostri, abbiamo detto ai nostri ascoltatori, abbiamo messo a disposizione, no, di questo via Twitter la possibilità di trovare una risposta ai dubbi, certo. E quindi hashtag oggi dono. E tu, tra l'altro, di hashtag te le intendi, dato che è proprio parte integrante del tuo spettacolo, sì. quale a me, che sarà in scena qui a Milano al Manzoni fino a domenica. Non hai bisogno certo di pubblicità, ma, no, sono contenta di... dare questa informazione. Di donare il sangue è necessario anche dire quando c'è un evento bello come il teatro, 3 giorni al Manzoni, poi è importante, è un teatro molto importante qui a Milano, quindi hashtag tale quale a me, perché è l'unico posto dove io riesco a essere tale quale a me stesso. E ci sono dei messaggi importanti anche durante lo spettacolo, non c'è solo da ridere, quindi questo, anzi aggiungerò questo dono il sangue, hashtag dono il sangue. Ottimo. Grazie, che regalo grande. Io ogni giorno, perché mia moglie me lo succhia tutti i giorni, quindi il sangue. Scherzo. Le mogli, meno male che ci sono, perché così riuscite anche a fare delle battute su di loro. Se no, dove andreste, Gabriele, senza mogli voi? L'ultima, proprio stamattina, proprio adesso, io ho detto, lo sai che mi rincarnerei in un animale? E lei, un'altra volta? Questa te la rubo, provo la rigiro per mio marito. Senti, allora, la promessa tua di inserire anche la nostra iniziativa. Assolutamente. È hashtag oggi dono, ma anche tu devi darci il tuo slogan per invitare le persone a donare o anche per restituire ai donatori la gratitudine. Allora, il mio diciamo slogan, hashtag dona se non nessuno ti dona. Allora, questo è molto semplice, è molto criptico, però guarda, è molto, funziona, fidati, perché è come quando uno dice chi non fa questa cosa gli cadono i peli. Allora, la stessa cosa, hashtag dona se non nessuno ti dona. Lo teniamo, lo mettiamo naturalmente nella nostra pagina di Cuore Denari. Un abbraccio a Gabriele Cirilli. Grazie, che aspettiamo a voi. Per la prossima, grazie, per il prossimo appuntamento di passaggio qua a Milano. Grazie. Che fate queste cose. Grazie, grazie, bravo anche a te. Mario da Pescara, e bravo anche Mario, buongiorno. Sì, ma cerco di essere. Cerco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i donatori, perché io ho un bambino talassemico che trasfonde una volta al mese. Senza i donatori, insomma, potremmo immaginare che fine avrebbe fatto mio figlio. Mi vengono i brividi solo a pensarci, quindi grazie a tutti. Grazie per Mario, per questa telefonata che è molto importante, perché quando parliamo di donazione dobbiamo pensare anche a tutte le persone che vivono, e sottolineiamo vivono, vero dottor Ozzino Caligaris? Sì, sì, grazie a questo gesto. Ricordiamo che ogni giorno avvengono quasi 9.000 eventi trasfusionali nel nostro paese, e questo soltanto grazie alle donazioni, perché il sangue non si può fabbricare in laboratorio, non si può ottenere con procedimenti industriali. Dottor Ozzino Caligaris, apriamo una parentesi sull'anemia sideropenica, no? Cioè l'anemia da carenza di ferro, che rappresenta la forma di anemia di più comune riscontro nella pratica clinica, in particolare nelle donne in età fertile e in soggetti anche con regime dietetico alimentare inadeguato, aggiungerei anche questo. Entriamo in un campo un po' minato, però ci sono poi anche le diete fai da te, si tolgono degli alimenti a caso e poi si paga con la salute per avere qualche chilo in meno. Ecco, chiudo. Allora, l'anemia sideropenica può rappresentare un limite a donare? Dunque, l'anemia è ovviamente uno dei parametri che deve essere valutato con massima attenzione per l'idoneità del donatore. Innanzitutto esistono proprio dei parametri che sono definiti dal decreto stesso, che sono i valori di 13,5 di emoglobina per l'uomo e di 12,5 di emoglobina per la donna, che consentono la donazione di sangue intero. Sì. Ci sono dei valori leggermente inferiori che consentono le donazioni in aferesi delle parti meno nobili del sangue, ma certo, perché non siano importanti, come le piastrine e il plasma, in quanto attraverso le procedure in aferesi consentono la separazione del sangue donato, la raccolta quindi del plasma, la parte liquida o delle piastrine, e la restituzione dei globuli rossi al donatore. Con queste procedure noi possiamo quindi consentire a donatori che hanno dei valori di emoglobina bassi e quindi delle anemie latenti di poter effettuare ugualmente delle donazioni importantissime, senza andare a depauperare l'organismo del donatore di quella parte fondamentale che appunto sono l'emoglobina e quindi il ferro, che come dicevo prima serve a costruire questa proteina indispensabile per il trasporto dell'ossigeno. Dottor Ozzino Caligaris, nel decreto si è portato l'età del donatore dai 65 anni ai 70, il peso invece rimane invariato, è 50 kg. E questo molte ascoltatrici, ad esempio Bruna, è proprio l'ultimo messaggio. Dice: ma mi piacerebbe moltissimo, ma il peso al di sotto del minimo non me lo consente. Ma perché al di sotto dei 50 kg non si può donare? Magari uno è piccolino. Dunque, la domanda è molto opportuna e mi permette di fare anche una precisazione. I decreti stabiliscono anche in maniera molto precisa la standardizzazione della quantità dell'emocomponente che deve essere raccolto. Sì. 450 ml di sangue, scusatemi, e tra 600 e 700 ml di plasma in aferesi. 450 ml di sangue significa che in una persona di 65 kg e circolano circa 5 litri di sangue, il che vuol dire che con la sottrazione di 450 ml noi andiamo a togliere meno del 10% del sangue circolante, che però viene conservato in queste sacche, sì, di raccolta, dove c'è una quantità di sostanze indispensabili per la sua conservazione ai fini poi di consentire la trasfusione entro i termini necessari, quindi entro i 45-52 giorni per poter essere utilizzati, perché il sangue una volta raccolto non è che si conserva all'infinito, si conserva solo per un periodo in cui vengono mantenute valide le sue caratteristiche di utilità per il ricevente. Certo. E di conseguenza questa quantità appunto sottratta è relativa alla quantità di sangue circolante. In una persona che ha un peso corporeo inferiore a 50 kg, ovviamente sottrarre 450 ml di sangue, che è indispensabile per poter garantire una terapia adeguata al ricevente e per poter rispondere a questi criteri di corretta conservazione, sarebbe eccessivo. Ecco il motivo per cui che... purtroppo... Ma insomma, bisogna mangiare un pochino di più, dai, esatto, aumentare di quel paio di chiletti che ci permettono di diventare donatore. Dottor Zino Caligari, se noi la ringraziamo e la salutiamo, vi ricordo. Io ringrazio voi. Ringraziamo anche gli esperti della FIDAS che risponderanno alle vostre domande, che arriveranno via mail a Cuore Denari entro le 13, oppure l'hashtag Oggi Dono per rispondere a tutte le vostre domande. Fai di te stesso un dono e diventerai un uomo, uno slogan che è arrivato molto bello, fresco, sì, fresco. Infatti. Intanto Deborah. Intanto noi ci salutiamo, vi auguriamo buon weekend, ma naturalmente Cuore Denari torna qua puntuale lunedì mattina alle 10:30 da Deborah e Nicoletta. Un carissimo saluto. A presto.